So, vogliamo chiedere al presidente della regione Friuli Venezia Sì. Giulia di centrodestra se vuole uscire dal PDL, se magari ha intenzione di uscire dal PDL. Magari è già uscito e non ce l'ha detto. Oppure è già ancora. Uscito e ancora non ce l'ha detto? No, no, non sono uscito, cioè non ci penso neanche, guardi. No? Io sono un uomo di partito, combatterò perché questo partito possa fare un po' meglio di quanto sto facendo. Guardi, io dico. Si può fare a meno della Lega nel futuro? C'è solo una regione che ha l'UDC e la Lega nella stessa giunta, ed è la mia. Ho capito, però una cosa è la regione, una cosa è il governo nazionale, lo sa. Ma io ho l'ambizione di proporre il mio modello per il governo nazionale, posso? Sì, sì, no, ma non certo. C'è Berlusconi, ovviamente. Non lo lasci fare, no? No, no, certo, certo. La condizio sine qua non è che Berlusconi si faccia da parte, presidente Tondo. Questo l'ho già detto e l'ho ribadito. Però perché io credo, è bollito, no, ma io credo lei? Guardi che io voglio molto bene a Berlusconi, perché sul piano personale è una persona che però è bollito diciamo, perché, perché è bollito? È arrivato in una fase della politica in cui evidentemente è bollito perché l'hanno massacrato un po' tutti, è un po' troppo, qualche errore l'ha commesso, però voglio quindi dire, è bollito anni, un po' per colpa della Boccassini, lei dice, no? Quindi è bollito un po' per colpa, un po' perché non ha fatto la rivoluzione liberale, no? Beh, io mi aspettavo di più, io devo dire che nel mio piccolo ho fatto le cose che lui non ha fatto e avrei voluto che avesse fatto anche lui. Berlusconi, fai come me. Fai come me, taglia i costi della politica, per esempio, taglia la spesa pubblica, diciamo, a livello nazionale, come io ho tagliato quella della regione, fai come e me. Poi potrei abbassare le tasse. E poi te ne vai, dice. No, io non me ne vado. No, lei, Berlusconi, dice, fai come me e poi te ne vai. Guardi, me l'ho già detto quattro volte, l'ho confermato. No, lo so. No, il bollito, per usare la parola di Tondo, il bollito Berlusconi. Cioè, il bollito è uno dei piatti preferiti nei miei ristoranti. Senta, lei ha parlato qualche giorno fa, perché ha incontrato Casini qualche giorno fa? C'è in ballo qualcosa, Tondo, ci riveli qualcosa? Ha incontrato Casini, dunque qualcosa... Ho incontrato Casini perché è una persona che stimo, che l'ho conosciuto quando ero parlamentare, fu uno dei pochi che all'interno della coalizione mi difese, cioè il mio partito non mi difese, Casini mi difese. E quindi gli sono rimasto... Dunque bisogna fare di tutto per riportare Casini nel centrodestra. Casini è un uomo di centrodestra. È un e uomo e la condizione è che Berlusconi se ne vada, questa è la realtà. Questa la pone Casini. E secondo me... La pone anche lei, però la dice anche lei. Pur di vincere bisogna farlo. Dunque via adesso, cioè domani dovrebbe presentare le dimissioni. Cioè presentato questo piano all'Europa, dovrebbe presentare le dimissioni e passare la mano, giusto? Domani, ieri, dopodomani, non importa. Non importa. L'importante è che sia un percorso che dia serenità al Paese. E siccome lui in questo momento è diventato, ben oltre le sue responsabilità, una questione, un problema, va bene, il problema va risolto per il bene del Paese. E lui guidi questo. Bossi, lei l'ha conosciuto? Com'è che si esprime in questo modo? Vai a quel Paese, stronzo. Insomma, è un uomo del popolo, no? E quindi parla come magna. Parla come... Peggiorato però. Negli anni. Insomma, gli anni tutti peggioriamo, no? Senta, lei che da presidente della regione, uno come Fini, insomma, non esagera un po' dibattito politico, presenza a Ballarò, dovrebbe dimettersi oppure no? Oppure non è un problema per lei? Secondo me sbaglia. Io che ovviamente ho conosciuto anche Fini, sia il segretario del partito che era presidente della Camera, devo dire che mi ha molto deluso, perché se lui legittimamente avesse voluto, come vuole, fare una battaglia politica, doveva farla dimettendosi dal ruolo istituzionale. Su questo sono convinto che ha commesso un errore e avrebbe dovuto avere il coraggio di mettersi in discussione. Grazie Renzo.